Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A voi tutti, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata con tutte le benedizioni del Signore, che il Signore possa accompagnarci in quest'ora e mezzo che condivideremo insieme, sostando sugli Atti degli Apostoli. Come voi sapete, queste nostre puntate di meditazione sul testo continuo, attraverso la lettura continua degli Atti degli Apostoli, hanno come obiettivo non solo di aiutarci a gustare la trama narrativa dell'autore sacro, ma anche quello di mettere, soprattutto quello, oserei dire, di mettere la parola di Dio in sintonia con la nostra vita. Proprio perché lo scavo all'interno del testo non si fermi alla nostra testa, ma entri nel nostro cuore, scaldando il nostro discepolato del Signore. Bene, nel nostro percorso sugli Atti degli Apostoli siamo arrivati agli inizi del capitolo 8. Chiedo a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di avere davanti a sé un'edizione della Bibbia. Perché lo vedrete, come nelle altre puntate, passeremo in rassegna alcuni testi, allora averli sott'occhio, leggerne insieme la traduzione, leggere i passaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento direttamente sul testo, aiuta, come dire, a cogliere con maggior forza il significato della narrazione. Nello stesso tempo ricordo che la nostra condivisione volutamente è divisa in due parti. C'è una parte in cui io condivido con voi quelle che sono le riflessioni attorno al testo biblico, e la seconda parte dove siete voi invece che condividete con me i vostri interrogativi, le vostre domande, le vostre richieste di chiarimento, oppure alcune intuizioni che leggendo il testo sacro lo Spirito può aver suscitato in voi. In modo che c'è un arricchimento vicendevole. Vorrei che in quest'ora e mezzo il vero maestro fosse il testo stesso, lo Spirito che parla attraverso il capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Non c'è uno che parla e gli altri che ascoltano passivamente. L'unico che parla, di cui tutti siamo discepoli, è lo Spirito Santo, che si serve anche di questi momenti di formazione per aiutarci a crescere nel cammino del discepolato cristiano. E a questo stesso Spirito chiediamo di accompagnarci in quest'ora e mezzo. Vi invito pertanto ad aprire la Bibbia sul capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo insieme i versetti che vanno dal 4 al 25. Prima di tutto un elemento di cornice. Il capitolo 8 rientra in un momento molto particolare della storia delle origini cristiane, ed è il momento in cui lo Spirito Santo spalanca la porta della comunità cristiana di Gerusalemme sulla realtà che sta fuori dalla comunità di Gerusalemme, spinge oltre il giudaismo in senso stretto. Il primo popolo che incontreremo e che accoglierà l'esperienza di Cristo sarà il popolo dei Samaritani, da qui poi l'ulteriore apertura sarà l'annuncio ai gentili. Il capitolo 8, dicevo, si inserisce nell'arco di tre capitoli dove l'apertura della comunità cristiana assume sempre maggior profondità. Nel capitolo 8 il protagonista è Filippo, con l'apertura, vi dicevo, i Samaritani, e poi a un eunuco che arriva dalle zone dell'Etiopia. Il capitolo 9, che è la fase successiva, vede come protagonista Paolo, che diventa il campione dell'apertura al mondo pagano. Il capitolo 10 avrà come protagonista Pietro, che è quello che pone il sigillo sull'apertura al mondo pagano, grazie alla conversione, al battesimo e al dono dello Spirito Santo su Cornelio e la sua famiglia. Quindi capitolo 8, 9 e 10 come i tre capitoli principali che ci raccontano questa apertura della Chiesa delle origini. Noi oggi ci soffermiamo sulla prima parte di questo movimento di apertura, che vede come protagonista Filippo. Il racconto che va dal versetto 5 al versetto 25 del capitolo 8, noi lo possiamo dividere in quattro scene. La prima racconta l'attività di Filippo, la seconda porta in scena una figura, come dire, curiosa del racconto, che è quella di un mago, Simone il mago Simone. La terza vede l'arrivo di Pietro e Giovanni nelle città della Samaria per verificare quanto sta succedendo, e l'ultima scena vede il confronto, un confronto anche acceso, forte, tra il mago Simone e l'apostolo Pietro. Cominciamo dalla prima scena. La prima, vi dicevo, racconta l'attività di Filippo. Ascoltiamo il testo dai versetti 5 al versetto 8. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Allora, teniamo presente l'inizio dell'attività di Filippo. L'inizio dell'attività di Filippo è un movimento di dispersione. La volta scorsa abbiamo visto come, in seguito alla predicazione di Stefano, una forte persecuzione era scoppiata contro la parte ellenocristiana della comunità, cioè contro quei cristiani che non osservavano in modo forte le leggi del Tempio, le leggi del giudaismo, e questo aveva causato la dispersione di questa parte della comunità cristiana. In seguito a questa dispersione ci viene detto una parte di questa comunità si rifugia in Samaria. Viene spontaneo chiedersi come mai quelli che vengono, che sono esposti alla persecuzione, si rifugiano in Samaria e non in un'altra regione. La risposta è molto semplice. I samaritani, noi lo sappiamo, nel primo secolo non avevano dei buoni rapporti con i giudei. Arrivare in Samaria e trovare, come dire, una sistemazione presso i samaritani era un posto sicuro in cui si era certi che i giudei non venivano sicuramente a cercare le persone perseguitate, proprio a motivo delle tensioni che c'erano tra i due popoli. Nasce però anche qui un dubbio: come mai gli ellenocristiani trovano accoglienza presso il popolo samaritano? In fondo anche gli ellenocristiani vengono da un'esperienza giudaica, cioè sono giudei della diaspora, quindi come mai i samaritani li accolgono nelle loro città di rifugio? Questo ci fa capire che i giudei che provengono dalla diaspora e che si sono convertiti al cristianesimo, fin dall'inizio hanno un elemento di fede che condivide alcuni aspetti dei samaritani, cioè la parte, l'anima ellenocristiana della comunità di Gerusalemme era l'anima che relativizzava ad esempio il Tempio di Gerusalemme, elemento condiviso dai samaritani, relativizzava alcuni aspetti più legati alla tradizione orale del popolo giudaico, come tutte le norme alimentari, aspetto che era condiviso dalla comunità samaritana, che aveva custodito nel suo DNA solo il Pentateuco e le norme di cui il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, si facevano portavoce. Ecco perché la comunità di Samaria è la comunità in cui questa parte della comunità cristiana può trovare subito rifugio, perché comunque c'è una condivisione anche da un punto di vista dottrinale che permette, come dire, la mutua comprensione. Ed è proprio su questi aspetti che erano perseguitati dai giudei di Gerusalemme. Quindi è facile trovare una certa sintonia, una certa comprensione da parte della comunità samaritana. Qui opera, ci viene detto, Filippo. Chi è questo Filippo? va subito precisato che il Filippo in questione non è uno dei dodici, ma è uno dei sette, cioè uno di quelle persone che provengono dalla comunità ellenocristiana e che era stato scelto all'interno della comunità in un momento di crisi per portare avanti il servizio delle mense. Se voi ricordate, in quel momento di crisi dove venivano trascurate le vedove degli ellenocristiani, i dodici avevano preso una decisione: affidare la questione caritativa a delle persone che sarebbero state elette dalla comunità, Filippo è uno di questi, riservare a sé l'annuncio della parola di Dio, cioè l'annuncio di quella parola che forma e fonda la comunità. Ora, da quel momento, da quella presa di decisione, Luca, con una certa ironia, ci fa notare che l'annuncio della parola di Dio, paradossalmente, passa a coloro che di per sé, secondo la decisione dei dodici, avrebbero dovuto servire le mense. Prima Stefano, che è la causa della persecuzione nei confronti della parte ellenocristiana della comunità di Gerusalemme, essendo anche Stefano ellenocristiano, ed ora Filippo. Quindi Filippo è uno dei sette colpiti dalla persecuzione, che porta avanti il suo ministero di annuncio della parola in Samaria. La descrizione di questo Filippo è talmente legato all'annuncio della parola di Dio che lo stesso autore degli Atti degli Apostoli, con una punta di soddisfazione, al capitolo 21, versetto 8, lo chiama addirittura l'evangelista. Quindi era un uomo veramente legato alla parola di Dio. E la sua descrizione ne fa anche come un uomo che non ha niente da invidiare, tra virgolette ovviamente, ai dodici. Il suo annuncio provoca la guarigione di molti indemoniati, non si ferma agli indemoniati, cioè non è in grado solo di cacciare i demoni, ma ci viene detto che molti paralitici e storpi erano guariti, e poi firma dello Spirito Santo, grande gioia c'era dove passava Filippo. Quindi gli elementi che caratterizzano il ministero dei dodici: cacciare i demoni, guarire i malati, portare gioia, annunciare il regno, sono tutti presenti in Filippo. Quindi questa cosa è molto molto importante, perché ci fa capire che su quest'uomo, in quest'uomo, agisce lo Spirito Santo. E i dodici? Beh, per quanto le persecuzioni abbiano per il momento lasciato in pace i dodici e la parte più giudeo-cristiana della prima comunità, non per questo possiamo dire che i dodici sono rimasti tranquilli nelle loro case, perché nel momento in cui si rendono conto che quelli dispersi hanno cominciato ad annunciare la parola ad altri popoli, samaritani prima, pagani poi, e allora questo comincia a sollevare l'interrogativo dell'identità e chiamerà in causa, metterà in movimento, in primo piano, subito i dodici. Ecco allora che una delegazione partirà da Gerusalemme, guidata da Pietro e Giovanni, ma su questo torneremo dopo. Lasciamo ora qualche breve istante di stacco musicale, in modo che ciascuno di voi possa rileggere questi versetti, quindi i versetti 5-8 o 4-8 del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, prima di continuare con la seconda parte della nostra, del nostro racconto, quindi un breve stacco musicale. Quindi abbiamo visto come la prima scena di questo capitolo 8 degli Atti degli Apostoli ci presenta il frutto positivo della dispersione, della persecuzione. La persecuzione, al posto di andare a detrimento della comunità cristiana, la favorisce, perché porta permette all'annuncio del Vangelo di estendersi fuori dalla realtà del giudaismo, e il primo popolo che viene ad essere coinvolto è il popolo dei Samaritani. Ora, la seconda scena di questo racconto mostra invece l'altro lato della medaglia. Andare dai Samaritani è chiaro che permette alla comunità cristiana di trovare un rifugio, di trovare un terreno vergine in cui portare l'annuncio del Cristo, ma porta con sé anche alcuni rischi. E il rischio è rappresentato dalla figura di Simone il Mago. Ascoltiamo quindi i versetti dal 9 al 13. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande». Gli prestavano attenzione perché da molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette, e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Allora, questa seconda scena ci mostra, come vi dicevo, l'altro lato della medaglia. La Samaria è un terreno vergine da un lato, ma è un terreno pericoloso dall'altro. E il racconto degli Atti degli Apostoli non è un racconto, come dire, improvvisato. L'autore degli Atti degli Apostoli ha sullo sfondo quello che era successo nei tempi passati. Da sempre nella storia di Israele la Samaria rappresenta una regione che è caratterizzata un pochino dal rischio del sincretismo, cioè di una religiosità non pura, non pulita. Questo perché la risposta sta nelle radici storiche del popolo di Samaria. Il popolo di Samaria vive durante la fase dei due regni, il regno del nord e il regno del sud, un momento molto critico quando nel 721 avanti Cristo, quindi 8 secoli prima di Gesù, il popolo di Samaria, il regno del nord, viene occupato dal dominatore assiro. Gli assiri cosa fanno nel 721, oltre a distruggere il regno del nord? Tolgono dalla regione tutte le persone più intelligenti, le persone legate al governo, alla formazione, le persone deputate alla guida del popolo, le portano in terra d'Assiria, quindi le deportano lontano, mettendo in quella terra dei governatori locali, altre persone che provengono dal popolo dell'Assiria. Queste persone, venendo nel regno del nord, portano con sé tutte le loro divinità. C'è un passaggio molto significativo del secondo libro dei Re, che adesso leggiamo insieme, al capitolo 17, versetti 24-34, che ci fa capire bene la situazione che succede nell'ottavo secolo avanti Cristo. Perché leggiamo questo testo? Perché quello che succede nell'ottavo secolo avanti Cristo avrà poi delle conseguenze lungo tutti i secoli successivi e sarà anche alla base di quella che era la resistenza che si respirava nel primo secolo all'interno della comunità cristiana e nello stesso gruppo dei dodici nei confronti dei Samaritani. Allora, ascoltiamo questa pagina del secondo libro dei Re che ci fa capire come mai il popolo di Samaria era visto in modo negativo. Il re d'Assiria mandò gente da Babilonia, da Cuta, da Avat, da Kamat, da Sefarvaim, e la stabilì nella città della Samaria al posto degli israeliti. E quelli presero possesso della Samaria e si stabilirono nelle sue città. All'inizio del loro insediamento non veneravano il Signore ed egli inviò contro di loro dei leoni che ne facevano strage. Allora dissero al re d'Assiria: «Le popolazioni che tu hai trasferito e stabilito nelle città della Samaria non conoscono il culto del Dio locale ed egli ha mandato contro di loro dei leoni, i quali seminano morte tra loro, perché essi non conoscono il culto del Dio locale». Il re d'Assiria ordinò: mandate laggiù uno dei sacerdoti che avete deportato di là. Vada, vi si stabilisca e insegni il culto del Dio locale. Venne uno dei sacerdoti deportati da Samaria che si stabilì a Betel e insegnava loro come venerare il Signore. Ogni popolazione si fece i suoi dei e li mise nei templi delle alture costruite dai samaritani, ognuna nella città dove dimorava. Gli uomini di Babilonia si fecero Succot-Benotte, gli uomini di Cuta si fecero Nergal, gli uomini di Kamat si fecero Asimà, gli Avviti si fecero Nibkaz e Tarkat, i Sefarviti bruciavano nel fuoco i loro figli in onore di Adrammelech e di Annammelech, divinità di Sefarvaim. Veneravano anche il Signore, si fecero sacerdoti per le alture, scegliendoli tra di loro, prestavano servizio per loro nei templi delle alture. Veneravano il Signore e servivano i loro dei secondo il culto delle nazioni dalle quali li avevano deportati. Fino ad oggi essi agiscono secondo i culti antichi, non venerano il Signore, non agiscono secondo le loro norme e il loro culto, né secondo la legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, a cui impose il nome di Israele. Allora, capite da questa pagina, del capitolo 17 del secondo libro dei Re, come il momento della caduta del Regno del Nord e della deportazione dei formatori della comunità è un momento disastroso, perché per quanto si portino nuovamente in quella terra i sacerdoti per insegnare le norme del Signore, ognuno si costruisce il suo tempio. Addirittura si arriva a far passare i propri figli nel fuoco in onore di Adrammelech e di Annammelech, cioè queste due divinità assire. Siamo al massimo dell'abominio, della desolazione. Nel momento in cui il periodo della deportazione terminerà e il popolo rientra attorno al 531, quindi sei secoli prima di Cristo, per ricostruire il Tempio di Gerusalemme, i samaritani fedeli a Dio, perché ci viene detto in questa pagina che alcuni comunque veneravano il Signore, quindi questi samaritani che continuano a venerare il Signore si presentano a Gerusalemme, dicendo di potersi unire a quelli che ricostruivano il Tempio, perché erano a favore del Tempio. Ecco, in questo momento i rientrati dalla deportazione li rifiutano, gli dicono: voi vivete in mezzo a un popolo idolatra, vi siete costruiti tutti i vostri templi, adesso ve ne andate. Li cacciano via e questo crea l'inizio di quella tensione che si prolungherà fino al primo secolo. Allontanati dal territorio di Gerusalemme, i samaritani costruiscono il loro tempio, lo costruiscono sul monte Garizim. Ecco, questa costruzione diventerà una sorta di tempio alternativo a quello di Gerusalemme, alimentando ulteriormente la tensione tra i due popoli. Se poi teniamo presente che in epoca maccabaica, quindi nel 128 a.C., i Maccabei che provengono da Gerusalemme salgono sul monte Garizim e radono al suolo il Tempio dei Samaritani per rendere onore alla gloria di Dio che abita solo a Gerusalemme, voi immaginate come questo ha ulteriormente alimentato le tensioni. A queste pagine tese si aggiungono poi tutta una serie di atti violenti del primo secolo. Sappiamo ad esempio tra il 6 e il 9 d.C., quindi siamo nel primo secolo, agli inizi del primo secolo, i samaritani compiono un gesto molto grave. A motivo di queste tensioni, alcuni volutamente si intrufolano di nascosto nel Tempio di Gerusalemme e spargono sul suo suolo le ossa dei morti, rendendo impura tutta l'area. Oppure all'epoca di Pilato, sul monte Garizim c'è un'adunanza sacra a motivo di un falso profeta che riteneva di poter dimostrare attraverso dei segni strabilianti che Garizim era il monte scelto da Dio. E questa adunanza fece intervenire, sotto la spinta dei giudei ovviamente, le truppe di Pilato, che fecero una strage. E tale adunanza costò la vita non solo a poche persone, ma costò anche la carica di Pilato, che venne dimesso. Ora, tutti questi episodi ci fanno capire il perché c'era questa tensione nei confronti dei samaritani. Non solo, ma ci aiutano a capire quanto quel popolo fosse visto male, cioè è un popolo che viene visto come un popolo che mescola la vera fede con qualcosa di impuro, con qualcosa di non lineare. Raccontare in questo contesto la scena di Simone il Mago permette al narratore degli Atti degli Apostoli di dire: ok, la dispersione porta l'annuncio del Vangelo in terra di Samaria, ma attenzione, perché questo annuncio del Vangelo in terra di Samaria è esposto al pericolo, e il pericolo è rappresentato proprio dal mago. Da un lato abbiamo Filippo, che annuncia la parola e compie segni strabilianti, dall'altro abbiamo Simone, un mago che fa le stesse cose. Da un lato annuncia la parola, dall'altro compie segni strabilianti, al punto tale che il nome che gli viene dato è la potenza di Dio, come se questo uomo fosse incarnazione della dynamis che viene da Dio. E allora è chiaro che il lettore si trova un pochino perplesso: da un lato c'è una persona in cui agisce la potenza del Vangelo, dall'altro c'è una persona che non capiamo il nome di chi agisce. Come mai Simone compie dei segni? La risposta che viene data dal narratore è: questa persona compie semplicemente dei segni di magia, quella magia che viene denunciata dal libro del Levitico e dal libro del Deuteronomio, facendo di Simone un asservito, un servo del diavolo, di Satana. La prima vittoria viene subito ottenuta da Filippo, perché il testo ci dice che vedendo quello che Filippo diceva e i segni che faceva, anche Simone il Mago si fa battezzare e la sua conversione sembra quasi una conversione sincera. Ci viene addirittura detto che dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo, quindi c'è una sorta di discepolato continuo, fedele, costante. Ma subito l'autore ci avverte: rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Quello che coinvolge maggiormente Simone il Mago sono i miracoli, i gesti, i segni. E questo attaccamento a Filippo sembra essere più che un attaccamento dovuto al desiderio, insomma, di lasciarsi formare, di essere discepolo di Gesù, sembra essere un attaccamento di chi vuole imparare i trucchi del mestiere per poterli esercitare anche lui. Quindi la conversione di Simone il Mago mette in allerta il lettore. Non basta, come dire, essere applauditi nel momento in cui si porta l'annuncio della parola. Non basta contare il numero delle persone che vengono battezzate per dire: ho fatto un buon lavoro. Occorre assicurare la formazione. Nel momento soprattutto in cui si passa da un territorio come quello di Gerusalemme al territorio dei Samaritani, ciò che diventa prioritaria è la formazione. Se a Gerusalemme questa non era necessaria al 100%, certo che era necessario l'annuncio del Signore, però si partiva da una base consolidata, che era la base dell'osservanza della Torah, che era la base della storia della salvezza, la stessa base condivisa con Gesù. Ora, giunti a Samaria, questa base rischia di venire meno, perché lì c'è un popolo che ha una storia molto particolare. C'è un popolo che vive sull'orlo, sul confine col sincretismo. Penso che questa seconda scena possa dire molto anche a noi oggi. Noi oggi, quando parliamo del Vangelo, annunciamo la parola, commentiamo queste pagine, non possiamo più porre il nostro annuncio su basi solide come anche ne avevamo 30 anni fa. 30 anni fa, quando uno raccontava alcuni episodi del Vangelo, della Bibbia, aveva, come dire, una cultura minima di base condivisa. Oggi questa cultura minima di base non c'è più. Tanto vero che molte domande che riguardano il testo biblico le troviamo a volte nei talk show o in alcuni spettacoli serali dove si fanno le domande, e spesso la gente anche su cose semplici, banali, non sa rispondere perché è venuta meno questa base comune. Quando viene meno questa base comune, c'è bisogno di un elemento formativo in più. Ed è quello che l'autore sacro evidenzia per il racconto degli Atti degli Apostoli. Vi invito quindi a rileggere questi versetti prima di continuare con la terza e la quarta scena, eh? Dopodiché daremo anche lo spazio alle vostre domande. Quindi uno spazio musicale, uno stacco musicale per leggere i versetti 9 e 13, dopodiché continueremo con il nostro racconto con la terza e quarta scena. Quindi, dopo che abbiamo ascoltato il brano che ci mostra il lato positivo dell'annuncio ai popoli di Samaria e l'altro lato della medaglia, cioè il rischio, vediamo come la prima comunità cristiana reagisce. Allora entriamo nella terza scena che riguarda l'invio in missione, una missione di verifica e di consolidamento dei versetti 14 e 17 da parte dell'invio di Pietro e Giovanni. Ascoltiamo il testo. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Ecco questa terza scena. La cosa viene alle orecchie della prima comunità, la comunità si chiede cosa fare. La prima cosa da fare è cercare di discernere la volontà di Dio. E per discernere la volontà di Dio, la prima comunità cristiana sceglie due persone, Pietro e Giovanni. Se capiamo la scelta di Pietro, del resto Pietro è un pochino quello che ha tenuto tutte le fila del primo movimento cristiano, desta qualche perplessità la scelta del secondo, perché è anche vero che nei primi discorsi pubblici Pietro è sempre affiancato da Giovanni, ma mandare Giovanni in Samaria forse non era proprio la soluzione più adatta, soprattutto all'interno della narrazione lucana. Luca è l'unico dei quattro Vangeli a dirci la cattiva reazione di Giovanni, durante il ministero pubblico di Gesù, dove ci viene detto che per andare a Gerusalemme in uno dei suoi viaggi Gesù è costretto a passare per la Samaria. E i samaritani non lo vogliono accogliere. Ecco, al capitolo 9, versetto 54, Giacomo e Giovanni hanno una reazione un pochino forte di fronte a questo rifiuto dei samaritani e rivolgendosi al maestro gli dicono: Signore, vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li distrugga? Giovanni aveva chiesto questo per i samaritani. Ora lo troviamo nella missione di verifica o di discernimento presso il popolo dei samaritani. Tra l'altro, lo stesso evangelista Matteo, all'interno della predicazione di Gesù, al capitolo 10, mette una frase del tipo: non andate dai pagani e non entrate in una sola città dei samaritani, cosa che ovviamente poi verrà superata. Questo per farvi sentire un pochino la sensazione che potevano avere anche i due emissari nel momento in cui si sono inoltrati nel territorio di Samaria. La cosa significativa è che gli apostoli sono i primi a darci un segno, un modello di conversione, si lasciano proprio guidare dallo Spirito, quindi il loro discernimento passa non solo dalla visita alla comunità, cercando di prendere visione in concreto dei frutti che stanno germogliando, ma il secondo segno del discernimento è il dono dello Spirito. loro vogliono verificare se lo spirito praticamente scende su questa comunità. Si rendono conto di non essere loro a dover decidere chi accogliere e chi no. Loro compito è lasciare che lo spirito resti protagonista e sia lui in qualche modo a dare i segni delle persone che sono pronte a inserirsi nel cammino cristiano e di quelle che non sono pronte a inserirsi nel cammino cristiano. E notiamo che il primo segno è positivo. La maggioranza dei fratelli della Samaria ricevono il dono dello Spirito. Tra l'altro, se Filippo dona il battesimo, spetta alla comunità madre donare lo Spirito Santo. Quindi c'è, come dire, un elemento importante che è l'elemento della coinonia, della comunione, che resta il fondamento su cui la comunità si costruisce. Il fatto che la maggioranza dei samaritani riceva il dono dello Spirito Santo non significa però che tutti sono pronti. Ed eccoci quindi alla quarta e ultima scena di questo episodio, la scena dove Pietro si trova a confrontarsi con Simone il Mago. Ascoltiamo i versetti dal 18 al 24. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti ha perdonato l'intenzione, che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vede infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità». Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto». Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. Allora, interessantissima questa ultima scena, perché l'ultima scena ci fa capire come, se la maggioranza era pronta per ricevere il Vangelo, la maggioranza non significa che tutti erano pronti. Simone il Mago porta in superficie quel lato della comunità che rischiava il sincretismo e quindi con la sua domanda che viene, come dire, proposta, non dico con ingenuità, però viene proposta come una cosa normale, permette a Pietro di fare delle rettifiche molto importanti, non solo di fare delle rettifiche molto importanti, ma di mettere decisamente in guardia l'intera comunità di Samaria e soprattutto Simone il Mago. Di fronte a questo intervento di Pietro, Simone il Mago sembra reagire in modo positivo, cioè chiede la preghiera, chiede il perdono, pur avendo ricevuto come dire, il dono del battesimo, però questo non basta, e pur avendo ricevuto il dono anche dello Spirito Santo, che lui vuole trasmettere addirittura agli altri, questo non basta, occorre un cammino di conversione forte interiore. Ecco, questo è il grande frutto che Pietro e Giovanni riescono a ottenere all'interno della comunità di Samaria, anche se Simone il Mago resterà nei primi secoli cristiani una figura ricordata per la sua ambiguità. Pensate che Eusebio di Cesarea, in riferimento proprio a Simone il Mago, a distanza di alcuni secoli, scriverà questo riguardo alle chiese cristiane dove si diffondono le prime eresie. «Qualcosa di simile», scrive lui, «lo si nota ancora oggi presso coloro che aderiscono ancora adesso all'empia eresia di Simone il Mago e che alla maniera del loro progenitore si insinuano come la peste e la rogna nella Chiesa e conducono alla rovina coloro cui possono somministrare il loro segreto malefico e malvagio veleno». Era un'accusa contro le eresie che si diffondevano nella comunità verso il IV secolo. Ecco, questo ci fa capire come il segno di Simone il Mago abbia lasciato poi una sua impronta. Il brano però, l'episodio però, si chiude con una nota positiva. Si chiude con un'istantanea che ci presenta Pietro e Giovanni in cammino nei villaggi della Samaria. Ci veniva detto, essi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, questo è importante perché ci fa capire che l'annuncio del Vangelo non termina con la proclamazione e con il battesimo e il dono dello Spirito Santo, ma continua con la testimonianza e l'attività formativa. Ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi di Samaria. Il discernimento di Pietro e Giovanni è stato fatto. Riconoscono che portare l'annuncio del Vangelo in Samaria è un'azione voluta dallo Spirito e subito loro si sintonizzano con l'azione voluta dallo Spirito. Quindi si affiancano all'azione di Filippo, diventando anche loro degli evangelizzatori dei villaggi dei Samaritani. Ora, non sappiamo cosa la comunità cristiana di Gerusalemme avrà detto a Giovanni e a Pietro nel momento in cui tornano a Gerusalemme raccontando di aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Da quanto veniamo a sapere poi in altri contesti nel capitolo 11, ci sembra lecito supporre che la comunità di Gerusalemme non li abbia salutati con tanto entusiasmo, non abbia salutato con tanto entusiasmo questa loro testimonianza. Ma una cosa è certa, quando lo Spirito scandisce veramente le tappe dell'annuncio ed è lui il protagonista, nessuno può fermare l'azione che si è instaurata, nessuno può chiudere le porte che si sono aperte. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo insieme questa sera commentato, letto e commentato questa pagina che ha per protagonista Filippo. Abbiamo visto come la persecuzione ha avuto un effetto benefico. Quante volte nella vita nostra quotidiana gli aspetti negativi che noi scarteremmo sono quelli che a lungo andare portano dei frutti benefici. A volte non dovremmo dimenticare questo. Allo stesso tempo però il racconto ci ha fatto vedere l'altro lato della medaglia. Arrivare in Samaria significa trovare un terreno vergine che torna a beneficio del Vangelo, però significa anche rischiare un certo sincretismo se non ci si lascia trasformare in profondità. Anche questo, non dobbiamo mai dimenticare che l'annuncio della parola chiede da parte nostra una conversione continua. Nel momento in cui l'annuncio della parola è solo qualcosa che solletica la mente e che non plasma la nostra esistenza, la stessa parola può diventare pericolosa, perché viene, come dire, manomessa e usata per i propri scopi, per il proprio uso, come accade, come rischia di accadere a Simone il Mago. E poi abbiamo riflettuto sull'azione di Pietro e Giovanni, due grandi apostoli della prima ora che hanno il compito arduo di discernere dove lo Spirito vuole condurre la comunità. E qua il messaggio bello è la capacità di Pietro e Giovanni di risintonizzare se stessa e la propria se stessi e la propria concezione della missione in un modo nuovo, mettendosi poi a fianco a Filippo ed evangelizzando anche loro molti villaggi della Samaria. Quante volte invece il nostro annuncio è rigido, incapace di fare un autentico discernimento perché siamo troppo prigionieri delle nostre idee, dei nostri schemi. Ecco, la flessibilità, la capacità di lasciarsi educare dallo Spirito e di seguire le sue vie è quella che veramente ha futuro e fa fare in tempi brevi i passi più grandi, come questa enorme apertura della comunità cristiana delle origini. Lasciamo ora un ulteriore stacco musicale, durante il quale, cari ascoltatori, vi invito a preparare le vostre domande, le vostre richieste di chiarimento, i vostri interrogativi o le vostre brevi riflessioni, in modo da entrare nella seconda parte, dove siete un pochino voi che diventate protagonisti e aiutate gli ascoltatori ad approfondire un ulteriore elemento attraverso le domande, un ulteriore elemento di questa pagina. Quindi vi aspetto e intanto un breve stacco musicale. Buonasera, con chi parlo? Sono Carla Pavan. Mi dica, da dove chiama? Sono, vivo a Palermo, grazie. Bene. Senta, lei a un certo punto ha posto in qualche modo questa domanda, come mai sono stati chiamati Pietro e Giovanni, lì nel punto in cui si dice agli apostoli che erano rimasti in Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono ad essi Pietro e Giovanni, e lei ha posto la domanda perché Giovanni. Io direi i motivi potrebbero essere due: uno, perché Pietro, Giacomo e Giovanni erano diciamo gli intimi del Signore che hanno partecipato alla passione del Signore, quindi probabilmente sono entrati nello spirito più intimamente. E poi proprio Giovanni nel suo Vangelo parla di quando Gesù ritorna, insomma passa per la Samaria e gli apostoli dicono: ma come, ti volevano lapidare e tu ritorni lì. E c'era stato tra l'altro anche, non so se in precedenza, insomma comunque c'era stato anche l'incontro di Gesù con la Samaritana, quando gli apostoli erano stanchi del viaggio, erano andati a fare le spese per il pranzo e sono sorpresi che Gesù parla con una donna, e per dire solo con una donna samaritana. Non gli chiesero nulla per delicatezza, ma insomma rimasero molto sorpresi, e in quell'incontro Gesù, parlando con la samaritana, si manifesta come il Messia, e lei la donna lascia il brocca quando viene, quando nota che Gesù, ecco, lo conosceva nel suo più intimo e gli rivela tutta la sua storia, la sua vita, e dice: vai a chiamare tuo marito. Dice: ma io non ho marito. Dice: certo, hai avuto 7 mariti, quello con cui vivi adesso non è tuo marito. E dice: ma tu chi sei? Un profeta? Conosci la mia... dice: so che devi il Messia. Ecco, dice: sono io che ti parlo. E non solo, dice: ma dove dobbiamo adorare Dio? Qui nel Pozzo di Giacobbe oppure sul... Gesù gli dice: è a Gerusalemme. Però viene il giorno in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, ma in spirito e vita. Quindi proprio credo che a proprio proposito qui vengano chiamati Pietro e Giovanni, perché parlano in nome dello Spirito Santo e quindi hanno compreso bene il messaggio. Non solo, ma Simon Mago, che ha compiuto, penso, il peccato più grave, che è quello di pensare di poter comperare o vendere le cose sacre, in realtà si pente e dice: pregate voi per me il Signore perché non mi capiti nulla di ciò che avete detto. E quindi dico, gli apostoli, appunto, le predicare, tra l'altro avendo avuto da Gesù la missione della predicazione, chiaramente hanno iniziato a predicare la parola di Dio a tutte le genti. Allora, signora Carla, la ringrazio del suo intervento. Vi invito, cari ascoltatori, a essere anche un pochino sintetici, in modo da lasciare un pochino lo spazio anche ad altri interventi. Ringraziamo questa ascoltatrice perché ci ha permesso un pochino di richiamare anche altri testi che riguardano la posizione dei samaritani. Ora, come vi dicevo, noi nel nostro quadro narrativo dobbiamo stare attenti a non mescolare le narrazioni, perché ovviamente l'Evangelista Giovanni, quando porta il suo racconto, ha di fronte una comunità che non è la comunità che ha Luca. Quindi l'episodio, ad esempio, dell'incontro tra Gesù e la Samaritana noi non l'abbiamo nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca però abbiamo quell'altro episodio che non troviamo negli altri evangelisti, che ho menzionato, quello del capitolo 9. quando ci viene detto che attraversando il territorio della Samaria, di fronte al rifiuto dei samaritani di accogliere Gesù, ci sono alcuni discepoli che reagiscono male. E tra questi discepoli che reagiscono male c'è Giacomo e Giovanni, non a caso chiamati i figli del tuono, che vogliono far scendere un fuoco dal cielo perché bruci e divori il popolo sincretista, il popolo dei samaritani. Per cui, da un lato, è certamente vero che vengono mandati in Samaria i due apostoli che fanno un po' da riferimento per la comunità cristiana. Fin dall'inizio degli Atti degli Apostoli, dicevamo, Pietro e Giovanni sono presentati vicino l'uno all'altro, come se fossero un po' i referenti della comunità. Però non è a caso che insieme a Pietro venga mandato Giovanni. Giovanni era quello forse un pochino meno disponibile all'apertura nei confronti del popolo dei samaritani, anche se ovviamente il suo discepolato con Gesù l'aveva educato ad un atteggiamento altro, però forse era quello che era un pochino più restio in questo. Noi sappiamo quando c'è qualcosa di delicato su cui si vuole fare discernimento, si mandano sempre due persone complementari, una più aperta e una un pochino più chiusa, una che è a favore e una che è contro, in modo da soppesare bene gli elementi della situazione. Ora, i due volti nei confronti dei samaritani sono non a caso Pietro e Giovanni. Quello che magari sa pesare di più gli aspetti positivi è quello che ha più presenti gli aspetti negativi. Quello che però conta è la conclusione dell'episodio, dove sia Pietro sia Giovanni si lasciano guidare dallo Spirito Santo e capiscono che nella comunità di Samaria è arrivata l'ora dello Spirito, cioè è arrivato il momento in cui accogliere questi fratelli all'interno della comunità. La nostra ascoltatrice menzionava e rievocava, facendo riferimento a un altro racconto che è quello di Giovanni del quarto Vangelo, evocava il capitolo 4, il capitolo dedicato alla Samaritana, dove nel dialogo tra Gesù e la Samaritana vengono evocati i sette mariti. Bene, anche questa evocazione dei sette mariti ha un valore simbolico che evoca la storia reale sincretista del popolo di Samaria. Ci sono alcuni esegeti che, attingendo anche dall'insegnamento dei padri, vedono in queste sette mariti i sette oppressori del popolo di Israele, cioè i nemici del popolo di Israele, coloro che hanno portato non la benedizione ma la maledizione a motivo delle loro divinità. E i sette mariti sarebbero gli egiziani prima, poi gli assiri, poi i babilonesi, poi i persiani, poi i greci, fino ad arrivare all'ultimo marito, cioè i romani, che dominano sul popolo. Quindi vedete come a volte lo stesso linguaggio, pur essendo in due narrazioni diverse, porta sulla scena la stessa informazione, cioè i samaritani rappresentano un pericolo, però è giunto il momento di aprirsi a loro. Il Vangelo che è stato scritto più tardi di tutti è il Vangelo di Giovanni, non è certo un caso che sia il Vangelo più aperto ai samaritani, perché viene scritto nel momento in cui la comunità cristiana è più avanti in questo percorso. La ringrazio signora Carla per la sua riflessione, lasciamo ora spazio al secondo intervento. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, Padre Pesco. Buonasera. Sono Carlo di Arezzo. Senta, una cosa non mi è chiara proprio di questi primi passaggi dell'evangelizzazione degli apostoli. Cioè, come appunto Pietro e Giovanni si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo e nella appunto evangelizzazione verso gli samaritani, e hanno ricevuto questa illuminazione dopo la Pentecoste, eppure non comprendono subito, nonostante abbiano avuto il potere di parlare nuove lingue. Questo li dovrebbe indirizzare su quello che è la volontà di Cristo e dello Spirito Santo. Non comprendono subito che la parola di Gesù va rivolta ad universas gentes, e paradossalmente è Paolo, che è più illuminato di loro, eppure non era presente il giorno della Pentecoste, che invece spinge per divulgare la parola non solo agli ebrei ellenizzati, ai mezzi ebrei che erano i samaritani, ma a tutti i pagani. Ecco, volevo che mi chiarisse, diciamo, questa apparente incongruenza tra l'illuminazione fornita dallo Spirito Santo e la parziale cecità iniziale, almeno di alcuni apostoli. E poi in appendice le chiedevo se mi poteva dare gli estremi di quel libro che lei aveva scritto per la relazione alla traduzione del Nuovo Testamento, di cui avevo sentito accennare in una trasmissione, in una replica notturna, però non sono riuscito a prendere appunto i dati. La ringrazio tanto e l'ascolto per radio. Grazie mille per il suo intervento, perché effettivamente lei tocca un aspetto molto importante, no, del percorso non solo degli apostoli ma anche del nostro percorso. Cioè il fatto di ricevere lo Spirito Santo, il battesimo, lo Spirito Santo, e il brano di oggi lo evidenzia molto bene, non è sufficiente. Cioè non è che ricevere lo Spirito Santo significa avere la scienza infusa in modo da capire subito i passi da fare. Abbiamo visto, probabilmente lo stesso Simone il Mago ha ricevuto il battesimo, ha ricevuto l'imposizione delle mani da parte di Pietro e Giovanni, però fa subito l'asinata di voler avere lui quel potere, no? E quindi si presenta con i soldi per dire: datemi anche a me il potere di dare lo Spirito Santo come me l'avete dato a me, perché così lo posso dare anch'io agli altri. Cioè è necessario a volte un percorso. E i fondamenti di questo percorso l'autore degli Atti degli Apostoli li scandisce bene fin dall'inizio della sua narrazione. In tre momenti della narrazione, capitolo 2, capitolo 4 e capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, l'autore sacro ci dice che il cammino cristiano può crescere grazie a quattro pilastri. I quattro pilastri sono la coinonia, vale a dire la comunione tra i fratelli, quindi il confronto comunitario, la fratio panis, l'eucaristia, la preghiera e poi il servizio fraterno, dove ognuno mette a disposizione degli altri quello che ha a disposizione, attraverso poi c'è l'elemento della didache, che completa questo elemento della coinonia. Quindi quattro aspetti: la coinonia, la fratio panis, la preghiera e la didache o insegnamento degli apostoli. Ora, questi quattro elementi servono per capire dove lo Spirito porta la comunità, e saranno questi quattro elementi che ad agio faranno capire anche ai dodici dove lo Spirito li vuole condurre. Lei nel suo intervento evocava l'esempio di Paolo, no? Dicendo: ma Paolo sembra essere più illuminato dei dodici nel portare l'annuncio ai pagani. Attenzione, perché Paolo, per arrivare a quel punto lì, anche lui deve fare il suo percorso. Paolo parte come un persecutore, un oppositore, e anche dopo l'incontro sulla via di Damasco, lo avremo modo questo di evidenziarlo molto bene quando commenteremo il capitolo 9 degli Atti, che non è distante da dove siamo adesso. Quando lui si converte sulla via di Damasco, la prima reazione non è positiva, la prima reazione è lasciarsi morire. Ci viene detto che si chiude, non vede nessuno, non vuole mangiare, non vuole bere. Noi in genere interpretiamo questo come se è in un momento di ritiro, ma il testo ci dice che Paolo si voleva lasciar morire, era caduto in una sorta di depressione tale dove tutto era chiuso. Se non ci fosse stato Anania, che si è recato da lui, quindi rappresentante della comunità, che gli impone le mani per donargli lo spirito, che gli fa una prima catechesi sul Signore risorto, che lo accompagna con la sua preghiera, quindi questi quattro fondamenti, anche Paolo non avrebbe capito dove, in che direzione andare. e nel cammino successivo poi di Paolo vedremo come lo stesso orientamento della sua missione agli inizi non è chiaro. Agli inizi sbaglia ad andare nel territorio dei Nabatei e sarà un fallimento, dovrà ritirarsi a Tasso per alcuni anni. All'inizio sbaglia ad andare in una direzione e lo Spirito gli bloccherà le strade per dire io ti aspetto dall'altra parte, cioè c'è un cammino progressivo e questo vale per ciascuno di noi. Quello che noi vediamo all'opera in Pietro, in Giovanni, in Paolo, è quello che succede nel nostro cammino di fede, dove la strada, la vocazione a cui il Signore ci chiama, si illumina passo dopo passo. Merita invece all'ultima domanda, quella legata al testo, ecco, nella collana Nuova Versione della Bibbia dei Testi Antichi, Il commento che porta un pochino il mio nome per quanto riguarda il commento e la traduzione è il commento al Vangelo di Marco, il titolo è proprio Marco, cioè il Vangelo di Marco, è il volume dedicato al Vangelo di Marco, che è stato tra l'altro oggetto di tutte le puntate, 44 puntate che abbiamo fatto proprio su Radio Maria fino allo scorso anno, quando terminato il Vangelo di Marco abbiamo iniziato gli Atti degli Apostoli. Grazie di cuore per le tue domande e passiamo ora al terzo ascoltatore. Pronto? Pronto Giacomo Perego? Sono io, sì. Buonasera, sono Lelio da Milano. Ascolti, mi ha colpito molto la sua catechesi, anche quello che ha detto il Papa ieri riguardo al lebbroso, perché questa situazione di fatica che ha fatto San Paolo così, no, nell'aderire ai progetti di Dio, no, si riscontra proprio anche nella società moderna attraverso la lebbra che è poi il peccato, no? E poi una domanda che volevo fare, lei mi ha parlato una volta di Chiara Luce Badano, perché io sono oppresso dal senso di colpa, questo senso di colpa di non sentire l'amore di Dio è una cosa che a volte ti fa passare delle notti agitate, e questa cosa io ho visto che Chiara Luce Badano l'aveva superata, no? Andata nella bara vestita da sposa, quindi nel sentire l'amore di Dio, sentirsi infinitamente amata da Dio, no? Anche nella tribolazione di quello che ha passato. Ecco, questo senso di colpa, uno cerca soluzioni nei farmaci, nei soldi, ma sta tutto nel rapporto giusto con Dio. Ecco, io le chiederei di essere esaustivo rispetto a come avere un rapporto giusto nella relazione con Dio tramite la sofferenza, il sacrificio, la purificazione, ma in un contesto di non sentire il senso di colpa, di superare il senso di colpa. Grazie Giacomo Perego, l'ascolto per A. Ringrazio Lelio per la sua domanda, che è una domanda molto impegnativa, no? Lei mi ha chiesto di dare una risposta esaustiva, ecco, io non so se in pochi istanti, in pochi minuti riesco a dare una risposta esaustiva, penso di poter dare un'indicazione. Un'indicazione che è legata al rapporto con la parola di Dio. Io sono convinto che se noi abbiamo un corretto rapporto con la parola di Dio, veramente abbiamo un punto di ancoraggio fermo e non solo, ma anche una strada ben tracciata che ci aiuta nella nostra formazione. E quando siamo gravati dal senso di colpa, la parola di Dio va accostata con una domanda di fondo. Spesso noi quando meditiamo sul Vangelo del giorno, ad esempio, siamo invitati a farci una domanda e la domanda è: cosa mi sta dicendo il Signore con questa pagina? Secondo me questa domanda è sbagliata. È sbagliata nel senso che non è la prima domanda che dobbiamo farci. La domanda che dobbiamo farci davanti a una pagina biblica non è subito cosa Dio vuole dirmi, cosa mi vuole comunicare, cosa devo fare. No, la prima domanda che dobbiamo fare è: quale tratto dell'amore di Dio emerge da questa pagina? E allora metterci subito in un atteggiamento di gratitudine e di contemplazione, perché se io mi metto in un atteggiamento di gratitudine e di contemplazione, io mi riconosco amato dal Signore, amato dal Signore. E allora da questo amore scaturisce poi la mia risposta. Ma se Se io mi chiedo subito cosa questo Vangelo mi chiede di fare, faccio un salto subito troppo grande che mi impedisce di mettermi di fronte all'amore di Dio. E se io non mi metto di fronte all'amore di Dio è un disastro, perché sarò sempre oppresso dai sensi di colpa. Quindi il suggerimento, caro Lelio, che le do è proprio questo, è davanti alla parola, alla pagina del Vangelo del giorno, chiedersi sempre quale tratto dell'amore di Dio emerge da questa pagina. Ad esempio, stasera abbiamo contemplato, meditato la pagina dell'annuncio in Samaria. Quale tratto dell'amore di Dio è emerso da questa pagina? Penso che ne sono emersi tanti. Ad esempio, il fatto che un momento drammatico della comunità cristiana è diventato lo spalancarsi di una porta sul mondo. La persecuzione che diventa una porta aperta sul mondo della Samaria. Oppure pensiamo al finale, dove certo Simone il Mago è stato strapazzato da Pietro con parole molto forti, ma quelle parole che l'hanno strapazzato hanno fatto verità dentro di lui, gli hanno fatto capire chi era. Questo è un gesto, un atto dell'amore di Dio. Non solo, ma dopo la sua richiesta di perdono, Simone il Mago viene rilanciato, viene riaccolto, non viene detto che viene espulso dalla comunità in questo testo. Quindi segno di un perdono anche che sa rinnovare le persone. Insomma, proviamo prima di domandarci cosa un testo voglia dirci, quale tratto dell'amore di Dio questo testo fa emergere? Guardate, questa prima domanda prioritaria non è che la invento io, Io stesso sono stato formato, educato a questo, quando facevo il cammino, no, sulla parola di Dio insieme alla comunità, alla città dei ragazzi di padre Andrea Gasparino, lui invitava proprio tutti a porsi davanti alla parola di Dio con questo interrogativo. Oppure un altro insegnamento forte, prima ancora di quello di padre Andrea, mi veniva dal mio stesso fondatore, il padre Giacomo Alberione, che è il fondatore della congregazione a cui appartengo, la congregazione dei Paolini. Lui invitava sempre ad accostare il Vangelo secondo un metodo, e questo metodo era il metodo verità via vita. Cosa vuol dire metodo verità via vita? Verità, cioè capire bene la parola di Dio che mi viene rivolta, quindi fare verità, fare luce su quello che quella parola dice alla mia mente, quindi l'importanza di studiare, di scavare, di capire cosa dice. Poi il secondo passaggio, via, come Gesù ha vissuto quella parola di Dio, diventando via per me. Ad esempio, se c'è il comandamento dell'amore, come Gesù l'ha vissuto? Se siamo invitati a essere vicino al prossimo, come Gesù ha vissuto questa prossimità? L'ha vissuta nei gesti, nelle parole, negli sguardi, nel tocco, quindi tutti questi elementi. Poi vita, come tutto questo avviene, si può riversare nella mia vita. Ma come vedete, anche in questo metodo verità via vita, la vita è l'ultima tappa. Prima di arrivare a lì bisogna porsi altre domande. E le altre domande toccano la verità di Dio. La verità di Dio è l'amore. Quindi lasciare emergere i tratti dell'amore di Dio. Ecco, sicuramente, caro Lelio, non sono stato esaustivo, però spero che queste due indicazioni, no? Una di padre Andrea Gasparino, l'altra del mio fondatore, il beato Giacomo Alberione, ecco, possano in qualche modo dare più forza al suggerimento e dirti guarda che funzionano, perché se due fondatori l'hanno vissuto, forse merita di questi suggerimenti meritano di essere interiorizzati. Grazie Lelio per la tua domanda. Passiamo al quarto ascoltatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io telefono sono Lellina, telefono dalla provincia di Agrigento. Bene. Nel momento in cui lei narrava il brano in questione, mi ha colpito il fatto che lei ha sottolineato che molti, la maggioranza, ricevette lo Spirito Santo. Ora mi pongo questa domanda: da dove, da quali segni capirono i discepoli perché quella maggioranza aveva ricevuto lo Spirito Santo, anche perché se io l'ho risvolto sulla mia vita, questo, mi rendo conto che pur volendo, cioè nelle situazioni un po' difficili, le preoccupazioni, essendo madre, essendo insegnante, ecco, affronto le situazioni della vita, secondo me, io sono convinta di questo e ne sto soffrendo tanto, non secondo lo Spirito di Dio, cioè io non vivo nella pace, non accetto diverse tante cose, entro in un'emozione che non è positiva, non è serenità, non vivo nella calma, molto preoccupata, non abbandonata, ecco, alle situazioni, e sono anche di peso un po' alla famiglia, cioè di peso nel senso che faccio avvertire queste mie ansie e non trasmetto quello che è la gioia, la serenità cristiana, e di questo me ne sto facendo un grande problema, al punto che sto cadendo in una depressione, perché appunto non sentendo l'amore di Dio come lo sentivo una volta, non capendo da niente da cosa sono con il Signore, pur essendo magari col Signore, ma mi sento molto distante da Lui, pur volendo ogni giorno, cercando di praticare questa contemplazione della parola, ma in ogni caso non riuscendoci, cioè sono un po' giù in questo periodo per questo motivo. Infatti la ringrazio per la catechesi, per quello che lei ci sta donando. Grazie, ascolto per radio. Grazie mille per questa sua domanda, che è anche un po' condivisione, no, della sua vita, di quello che lei sta vivendo. E invito anche gli ascoltatori che ci stanno condividendo questo momento con noi a regalarle proprio una preghiera stasera, no, prima di addormentarsi, in modo da aiutarla a ritrovare quella serenità, quella gioia profonda che viene dall'essere con il Signore. Sicuramente non è sola a lottare contro magari questi momenti di scoraggiamento o contro la depressione, no? Non è la sola. E allora anche noi che insieme a lei facciamo questo cammino e condividiamo questo momento nella trasmissione, le assicuriamo proprio stasera proprio un ricordo, una preghiera. Ecco, qual è il segno che lo Spirito agisce all'interno delle persone e con l'imposizione delle mani scende nelle persone? Il testo non è che è molto esplicito su questo senso, è esplicito nei momenti di Pentecoste, quando ci dice che lo Spirito scendendo permette alle persone presenti di capirsi, di entrare in un linguaggio comunitario, pur parlando a volte le lingue diverse. Però nelle lettere di San Paolo noi abbiamo dei criteri che ci dicono quando lo Spirito, scendendo in una persona, riesce veramente ad essere vivo e operante in mezzo ad essa. E la risposta la attingo dal capitolo 5 della lettera ai Galati, dove Paolo distingue quelle che sono le opere della carne, intesa come qualche cosa che ci tiene legati solo alla materialità, dal frutto dello Spirito. Cioè il frutto dello Spirito, dice Paolo, è uno solo. Leggo il versetto 22 del capitolo 5 della lettera ai Galati. Il frutto dello Spirito invece è amore. Quindi il segno principale che le persone ricevono lo Spirito è l'amore. E poi ci sono due punti, in genere questi due punti non sono messi nelle traduzioni, ma andrebbero messi. Frutto dello Spirito è amore, che vuol dire gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questi sono gli elenchi che Paolo ci propone per darci dei criteri grazie ai quali possiamo valutare, discernere se l'azione dello Spirito di Dio è viva oppure no. Un amore che si riverbera in tutti questi colori: la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé. Sono caratteristiche, colori dell'unico amore che nel momento in cui vengono messi anche in movimento, ci aiutano ad allontanare le ombre dello scoraggiamento, della depressione. Quindi tanti cari auguri, cara ascoltatrice, che il Signore accompagni lei e noi alla luce di questo, di questi doni dello Spirito. Grazie di cuore. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Eccoci, mi dica da dove chiama? Mi chiamo Maurizio, buonasera. Buonasera Maurizio, certo, la sento bene. Bene, sì, no, io volevo chiederle questo, ho sentito l'argomento della trasmissione mentre ero in macchina e ho chiamato perché riguardo la figura di Simon Mago avevo letto su un libro che parlava di Vangeli apocrifi, era, non l'ho letto neanche tutto, l'avevo solo sfogliato, però l'autore, poi magari le manderò anche il riferimento se ritrovo il libro dell'autore che aveva fatto una ricerca, diceva che Simone il Mago era padre della gnosi e che era stato un grande eretico sostanzialmente e che era una figura anche a seguito di altri scritti, adesso non mi ricordo più se di Sant'Ireneo, Sant'Ambrogio, che facevano riferimento a questa figura, sostenevano appunto che era altamente eretica e si era posto proprio come una forte in alternativa a Pietro, come se volesse lui essere, come se fosse il primo, diciamo, antipapa, diciamo così, no? Anticristo. No? E lo davano proprio come una figura negativa, che è ispirata dal demonio, questo, diciamo, no? La tesi, questo sosteneva che tutta l'agnosi fosse poi derivata da questa figura, Simone il Mago. Allora volevo sapere se a lei questa cosa tornava e aveva dei riferimenti in merito a questo. Certo, certo. Grazie carissimo Maurizio, questa è una domanda davvero interessante e importante. Effettivamente quanto ci dice il nostro ascoltatore è molto vero. Simone il Mago nella storia delle origini cristiane diventerà l'emblema dell'eresia. Noi abbiamo letto al termine della nostra riflessione un testo di Eusebio di Cesarea, ma abbiamo dei testi ben più antichi di questo che fanno proprio di Simone il Mago il padre dell'agnosi nel senso peggiorativo del termine. E c'è di più, pensate, c'è un testo antico che vede, fa un abbinamento tra l'Apostolo Paolo e Simone il Mago, il testo porta il titolo di Insegnamenti di Giacomo, ovviamente è un testo apocrifo, volutamente contrario a Paolo, descrive l'Apostolo Paolo come la controfigura di Simone il Mago, colui che con la sua apertura al mondo pagano, i suoi insegnamenti sulla legge, sul Tempio, sulle norme di purità, ha voluto, come dire, deviare la Chiesa delle origini e lo pone in antitesi a Pietro. Quindi, effettivamente il brano che viene qui rappresentato nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli sarà un brano che verrà ripreso, proprio perché mostra una sorta di antagonismo tra una persona che fa gesti straordinari in nome della magia e si sente l'incarnazione della divinità che viene opposta a Filippo. Prima lo scontro con Filippo e poi allo scontro con Pietro, quindi rappresenta, viene presa dalla tradizione cristiana la figura di Simone il Mago come l'emblema, la figura simbolica di tutti coloro che si oppongono alla Chiesa vera e propria. E all'interno di queste correnti alcuni trasformano addirittura Paolo in discepolo di Simone il Mago, ovviamente sono le correnti dei detrattori del grande apostolo. Per coloro che vogliono un approfondimento su questi elementi invito a leggere l'ABC dei Vangeli Apocrifi, un testo che ho scritto insieme al professor Giuseppe Mazza e che illumina proprio su tutti questi aspetti. Ci sono due capitoli interi che sono dedicati proprio alla figura di Simone il Mago e alle riletture nei testi apocrifi di questo di quanto il nostro ascoltatore ci diceva. Quindi grazie Maurizio del tuo intervento, perché ci ha permesso di approfondire un ulteriore aspetto. Dalla regia mi tirano le orecchie, mi dicono che non c'è spazio per la sesta telefonata, quindi ringrazio quanti hanno chiamato, da Maurizio alla signora da Agrigento, Lelio da Milano, il nostro amico di Arezzo e Carla da Palermo. Quindi grazie a voi che siete intervenuti, perché mi avete aiutato a commentare con le vostre riflessioni questo capitolo degli Atti degli Apostoli, quindi a rendere ancora più ricca la parola di Dio, e chiediamo l'uno per l'altro il dono di saper ben discernere dove lo Spirito vuole accompagnare la nostra vita, le comunità a cui apparteniamo e la Chiesa di Dio, che è il grande, uno dei grandi doni che ci viene dato ogni giorno. Un caro augurio a tutti voi ascoltatori e buon cammino di Quaresima. Ci risentiamo tra un mese. Una benedizione a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.